Ad alta voce, Massimo Popolizio legge I vecchi e i giovani di Luigi Pirandello. Superata l'erta dello stradone, appoggiato di là all'altro versante della vallata, Placido Sciaralla seguitava intanto a trotterellare su Titina per Balsania, immerso in nuove e più complicate considerazioni. Gli si svolgeva ora, a sinistra, la campagna lieta della vicinanza del mare, tutta a mandorli, a olivi e a vigneti. Era già in vista della seta, casale di una cinquantina d'abituri allineati sullo stradone, fondachi e taverne per i carrettieri, la maggior parte da cui esalava un tanfo acuto e acre di mosto, un tepor grasso di letame e botteghe di maniscalchi, di magnani, di carrai, con una stamberguccia in mezzo ridotta a chiesuola per le funzioni sacre della domenica. Per schivare la vista di quei borghigiani zotici che lo conoscevano tutti, Sciaralla imboccò un sentieruolo tra i campi e in breve si internò nelle terre di Balsania. Tranne il vigneto, cura appassionata e orgoglio di Mauro Mortara, e l'antico oliveto saraceno, il mandorleto e alcuni ettari di campo sativo, e giù nell'ampio burrone l'agrumeto, che costituivano la parte di mezzo riservata a Don Cosmo, tutto il resto era ceduto in piccoli lotti a mezzadria a poveri contadini, non dal principe Don Ippolito direttamente, a cui anche quel feudo apparteneva, ma da fittavoli di fittavoli, i quali, non contenti di vivere in città da signori sulla fatica di quei poveri disgraziati, li vessavano con l'usura più spietata e con un raggiro intricato di patti esosi. L'usura si esercitava sulla semente e sui soccorsi anticipati durante l'annata, l'angheria più iniqua nei prelevamenti al tempo del raccolto. Dopo aver faticato un anno, il cosiddetto mezzadro si vedeva portar via dall'aia, a tumulo, quasi tutto il raccolto. Mauro Mortara stava innanzi alla villa e i tre mastini vigili attorno col muso all'aria. Ebbene, all'arrivo di lui, questa volta, essi se ne stettero lì. Uno anzi sbadigliò, quasi avessero compreso che il padrone avrebbe fatto ottimamente le loro veci. «Ma che vuoi tu qua, a quest'ora, malombra?» gli disse infatti Mauro, tirandosi giù dal capo il cappuccio del ruvido cappotto in cui si era avvolto e scoprendo la testa oppressa dall'enorme berretto villoso. Quando era prossima la vendemmia, Mauro Mortara non dormiva più le notti. Stava a guardia della vigna, passeggiando per i lunghi filari insieme con i tre mastini. Forse se n'era stato all'aperto anche con quella notte da lupi. Ah, ne era ben capace. Sciaralla lo salutò umilmente, poi, indicando i cani, domandò: «Posso scavalcare?» «Scavalca!» borbottò Mauro. «Che porti?» «Una lettera per Don Cosmo», rispose Sciaralla, smontando dalla giumenta. E mentre si cercava nella tasca interna del cappotto, si sentiva addosso gli occhi di Mauro, pieni di ira e di scherno. «Eccola! La manda Sua Eccellenza di gran fretta!» «Sta qui!» intimò Mauro, prendendo la lettera, «e vada di non lasciare la giumenta». Sciaralla sapeva che gli era proibito di salire alla villa, come se con la sua uniforme potesse sconsacrare quel vecchiume, quella rozza cascinaccia di un solpiano, lui che veniva dagli splendori di Colimbetra, dove uno si poteva specchiare anche nei muri. La proibizione non partiva certo da Don Cosmo, ma dal Mortara stesso, il quale gli vietava persino di legare la giumenta agli anelli confitti nell'aggetto della rustica scala a collo. Doveva tener le briglie in mano e star lì in piedi, all'aperto, ad aspettare, quasi fosse venuto per l'elemosina. Appena Mauro si mosse, i tre cani s'accostarono pian piano a Capitan Scialla e cominciarono a fiutarlo. Il poveretto, fermo e con l'anima sospesa, alzò gli occhi al Mortara che saliva la scala. «Non vi sporcate il muso con questi calzoni», disse Mauro, dopo aver chiamato a sé i cani, e soggiunse, rivolto a Scialla: «Adesso ti mando un sorso di caffè, per farti rimettere dalla paura». Pervenuto al pianerottolo, fece per bussare al modo convenuto, battendo cioè tre volte il saliscendi sul dente del nasello interno. Ma appena alzato il saliscendi, la porta si aprì e Mauro entrò, esclamando: «Aperta! E nuova aperta! L'avete aperta voi!» Poi soggiunse dietro l'uscio della cucina, da cui per un istante si era mostrata la testa incuffiata di donna Sara Alaimo, la casiera, cameriera no, di Balsania. «Io!» gridò l'interno di donna Sara. «Mi adesso io!» E, sentendo che Mauro si allontanava, fece le corna con una mano e le scosse più volte in un gesto di dispetto. «Cameriera? No, lei! Perbacco! Né di lui, né di nessuno là dentro!» Aveva la ventola in mano. Sì, è vero, stava ad accendere il fuoco in cucina, ma era una vera signora, di nascita ed educazione lei, lontana parente di Stefano Auriti, cognato dei Laurentano, e perciò, se vogliamo, parte della famiglia anche lei. Donna Sara s'affacciò alla finestra e, vedendo giù Capitan Scialla, emise un profondo sospiro con un breve lamento alla gola. «Ah, Placidino, Placidino, offriamolo al Signore in penitenza dei nostri peccati». Intanto Mauro era entrato nello stanzino da bagno di Don Cosmo. Tutto era vecchio e rustico in quell'antica villa abbandonata. Rosi i mattoni dei pavimenti abballati, le pareti e i soffitti anneriti, le imposte e i mobili stinti e corrosi, e tutto era impregnato come di un tanfo di granaglie secche, di paglia bruciata, d'erbe appassite nell'afa delle terre assolate. Nello stanzino da bagno, Don Cosmo, in mutande a maglia, nudo il torso peloso, nudi i piedi nelle vecchie ciabatte, si preparava alla consueta abluzione con una dozzina di spugne, grandi e piccole, disposte sul lavabo. Si lavava tutto ogni mattina, anche d'inverno, con l'acqua ghiaccia, e questa era l'unica delizia della sua vita. Solennissima pazzia, invece, per Mauro, che sì e no, ogni mattina si lavava la semplice maschera, come egli diceva, per significare la sola faccia. «Avete dormito di nuovo con la porta aperta?» «Sì. Oh, guarda!» fece Don Cosmo, come ne fosse stupito, e si grattò sul mento la corta barba grigia, ricciuta. «Mai, eh? Gli occhi non li avrete mai!» ingalzò il Mauro. «Lo dico io, il bamboccetto, l'aglio, la baia gli dobbiamo dare, santissimo Dio, ma che cristiano siete? Non l'avete letto il giornale di ieri? Di quei lacci di porca che con la scusa della fame vogliono mandare a gambe all'aria tutto quello che abbiamo fatto noi, a costo del sangue nostro!» Don Cosmo, tra i gesticolamenti furiosi di Mauro, non s'era accorto della lettera che quei teneva in mano e quietamente aveva cominciato a insaponarsi il capo calvo. Stizzito da quella calma, Mauro seguitò: «E se tutti fossero come voi? Ma ci sono anch'io qua, per grazia di Dio. Vecchio come sono, avrebbero ancora da vedersela con me!» Don Cosmo voltò il capo tutto luccicante di bolle di sapone e lo guardò. «Vedi che posso dunque seguitare a dormire anche con la porta aperta. Ci sei tu!» I giornali a Balsania capitavano di tanto in tanto, già destinati al loro più umile e forse più utile uso di involti. Mauro se li rimetteva in sesto amorosamente, ci passava sopra le mani più volte per appianarne le brancicature e gli strambelli e, vincendo con una pazienza da certosino l'enorme stento della lettura, già che da sé assai tardi aveva imparato a compitare appena, se ne pascolava per intere settimane, cacciandoseli a memoria dal primo all'ultimo rigo. Erano tutte notizie nuove per lui, echi sperduti della vita del mondo. Nell'ultimo giornale, venutogli così per caso tra mano, aveva letto, il giorno avanti, di uno sciopero dei solfarai in un paese della provincia e della costituzione di essi in fascio di lavoratori. Rivendicazione del proletariato. Si era fatte spiegare da Don Cosmo queste due parole per lui sibilline e tutta la notte, chiuso nel boricco, sotto l'acqua furiosa, aveva ruminato e ruminato, sbuffante di sacro sdegno contro quei nemici della patria. Non degnò di risposta le ultime parole di Don Cosmo, il quale, anche per lui, non doveva avere la testa a segno, e gli porse la lettera di Don Ippolito. L'ha portato uno dei suoi pagliacci, Sciallarino il capitano. Per me? Domandò Don Cosmo meravigliato, tenendo l'acqua nelle mani giunte. Mi scrive Ippolito? Oh, che miracolo! Apri e leggi. Ho le mani bagnate. E asciugatevele, gli disse Mauro brusco. E gli affari di vostro fratello, sapete bene, io non voglio andarci. Ma non pare la sua scrittura. Ah, preola, osservò Don Cosmo, guardando la busta. La lettera era scritta dal segretario sotto dettatura e firmata da Don Ippolito. Leggendola, Don Cosmo, alle prime righe, aggrottò le ciglia, poi sciolse man mano la tensione della fronte e degli occhi in uno stupore doloroso. Abbassò le palpebre e abbassò la mano con la lettera. Dunque è vero. Vero che cosa? Brontolò Mauro, stizzito della sua curiosità. Don Cosmo sporse il labbro, contraendo in giù gli angoli della bocca in un gesto di amara e sdegnosa commiserazione. Tentennando il capo, poi disse: «Se da questo passo non c'è più rimedio, si rovina». «Ditemi, che cos'è, santo diavolo?» ripete Mauro, vieppiù stizzito. Ma Don Cosmo stette a guardarlo d'un pezzo prima di rispondergli. «Mi domanda la villa». Poi disse, lasciandosi cadere a una le parole delle labbra, «La villa per Flaminio Salvo». «Qua?» domandò Mauro con un soprassalto, quasi Don Cosmo gli avesse dato un pugno in faccia. «Qua?» ripeté, tirandosi indietro. «A Flaminio Salvo, la villa del generale Laurentano!» Ma Don Cosmo non si infuriava come Mauro per l'immaginaria profanazione della villa. Era solo oppresso di doloroso stupore per ciò che significava quella ospitalità offerta al Salvo dal fratello. Pochi giorni addietro, un amico, Leonardo Costa, che veniva qualche volta a trovarlo dal vicino borgo di Mare, gli aveva riferito la voce che correva a girgenti di un prossimo matrimonio di Don Ippolito con la sorella nubile, zitellona del Salvo. Don Cosmo non aveva voluto crederci. Suo fratello Ippolito aveva 2 anni più di lui, 65, da 10 era vedovo e si era mostrato sempre inconsolabile, pur nella sua compostezza, della morte della moglie, santa donna. Impossibile! Eppure... Gli risponderebbe da no, disse Mauro minaccioso, dopo aver atteso un momento. Don Cosmo aprì le braccia e sospirò, con gli occhi chiusi. Sarebbe inutile. E poi, del resto... Come? Lo interruppe Mauro. Il Salvo, quell'usuraio baciapile qua. Ma me ne vado io allora. E non vi ricordate per Dio che suo padre andò ad assistere al Te Deum quando vostro padre fu mandato in esilio? E lui stesso, giovanotto, non insegnò alla sbirraglia borbonica la casa dove si era nascosto Don Stefano Auriti con vostra sorella, quando i nobili di Palermo portarono a Satriano in Caltanissetta le chiavi della città? Ve lo siete scordate voi queste cose? Io le ho tutte qua, nella mente. Come in un libro stampato. Fatelo venire a Bassania ora, se ne avete il coraggio. Ma la stanza del generale no, quella no. La chiave del camerone la tengo io. Là, non ci metterà piede, o l'ammazzo. Parola di Mauro Mortara. Don Cosmo non si scompose affatto dal suo penoso attonimento a quella lunga sfuriata. Parecchie volte era stato sul punto di far intendere a Mauro che a Gerlando Laurentano, suo padre, non era mai passata per il capo l'idea dell'unità italiana e che il Parlamento siciliano del 1848, nel quale suo padre era stato per alcuni mesi ministro della guerra, non aveva mai proposto né confederazione italiana né annessione all'Italia, ma un chiuso regno di Sicilia con un re di Sicilia e basta. Questa l'aspirazione di tutti i buoni vecchi siciliani di allora, la quale, se di qualche punto all'ultimo s'era spinta più in là, non era stato mai oltre una specie di federazione in cui ciascuno Stato dovesse conservare la propria autonomia. Non gliene aveva detto mai nulla, né pensò di dirglielo adesso, e lasciò che Mauro, sbuffando di sdegno, gli voltasse le spalle e andasse a rinchiudersi in quella stanza del principe padre, sacra per lui quanto la patria stessa, primo covo della libertà e ora quasi tempio di essa. Giù, intanto, innanzi alla villa, il povero Sciaralla stava ad aspettare ancora il caffè promesso. Magari un sorso e una bella fiammata per stirizzirsi. Aspetta, aspetta. Se ne scordò anche lui e cominciò a sentirsi tra le spine per il ritardo della risposta. Avrebbe dovuto averla con sé dalla sera avanti, se avesse obbedito al preola. Pensava che a quell'ora il principe a Colimbetra s'era forse levato e domandava al segretario quella risposta, e lui era ancora là ad aspettarla. Ma ci voleva tanto a leggere la lettera e a buttar giù due righe di risposta. O che il Mortara, a bella posta, non l'avesse ancora data a Don Cosmo. E Capitan Sciaralla sbuffava. Se la prendeva ora con Titina, che non stava ferma un momento, tormentata dalle mosche. «Quieta, stai quieta!» diceva. Tre strattoni di briglia. Titina chiuse gli occhi lacrimosi con tanta pena rassegnata che Sciaralla subito si pentì dello sgarbo. Hai ragione anche tu, poveretto. Non hanno dato neanche a te una manata di paglia. E lasciò andare un sospirone. Finalmente Don Cosmo si affacciò a una finestra della villa. Al rumore delle imposte Sciaralla si voltò di scatto. Ma Don Cosmo si mostrò meravigliato di vederlo ancora lì. «Placido, e che fai? Ma come, eccellenza, è alla risposta!» gemette il capitano, giungendo le mani. Don Cosmo aggrottò le ciglia. «E c'è bisogno della risposta? Ma come?» ripeté Sciaralla esasperato. «Se sto qui da un'ora ad aspettarla!» Ecco appunto, quel vecchio boia non gliene aveva detto nulla. «Hai ragione, sì. Aspetta, figliuolo!» gli disse Don Cosmo, ritirandosi dalla finestra. Pensò che il fratello stava attento anche alle minime formalità, inghionerie, le chiamava lui, e che avrebbe considerato come un affronto, o un grave sgarbo, perlomeno, non aver risposta. Prese dunque un umile foglietto di carta ingiallito, intinse la penna tutta agrumata in una bottiglina di inchiostro rugginoso e, in piedi, lì, sul piano di marmo del cassettone, si mise a ponzar la risposta, che infine, dopo molto stento, gli uscì in questi termini. Da Valsania, lì, 22 settembre del 1892. «Caro mio Ippolito, tu forse non sai in quale miserevoli condizioni sia ridotta questa decrepita stamberga, dove io solamente posso abitare, che mi considero già fuori del mondo e non me ne lagno. Se tu stimi ciò non vertando che non si possa fare di meno che ci vengano a rusticare gli salvo, abbi, ti prego, l'avvertenza di prevenirli che qua difettiamo di tutto e che però, seco loro, si portino tutte quelle masserizie di casa et ogni altra suppellettile di cui reputino aver bisogno. Altro vorrei dirti e direi, se vano non mi paresse lo sperare che potesse tornare al pro la mia ragione, onde senz'altro caramente ti abbraccio. Cosmo. Chiuse la lettera sbuffando e si recò di nuovo alla finestra. Capitan Sciaralla accorse, si levò il berretto e vi accolse la lettera. Alla vostra eccellenza. Un salto e in sella. De volo, de vena. Bau, bau, bau, bau. I tre mastini, svegliati di soprassalto, gli corsero dietro un lungo tratto per dargli a modo loro l'addio. Don Cosmo rimase alla finestra, seguì con gli occhi il galoppo di Capitan Sciaralla fino alla voltata del viale, poi il ritorno ringhioso e sbuffante dei tre mastini dopo la vana corsa e il vano abbaiare. Quando le tre bestie alla fine si sdraiarono di nuovo a terra presso la scala e allungando il muso sulle zampe anteriori chiusero gli occhi per rimettersi a dormire, egli, mirandole, scrollò lievemente il capo e sorrise. Davanti a quel loro ricomporsi al sonno, non gli sembrarono più vani nell'abbaiare, nella corsa di poc'anzi. Ecco, le tre bestie avevano protestato contro la venuta di quell'uomo, il quale aveva loro interrotto il sonno. Ora che credevano di averlo cacciato via, tornavano saggiamente a dormire. Perché la saggezza del cane, pensò sospirando profondamente, quando abbia mangiato e atteso gli altri bisogni del corpo, lasciare che il tempo passi dormendo. Guardò gli alberi davanti alla villa. Gli parvero assorti anch'essi in un sogno senza fine, da cui, invano, la luce del giorno, invano, l'aria, smuovendo loro le fronde, tentassero di scuoterli. E da un pezzo ormai, nel fruscio lungo e lieve di quelle fronde, egli sentiva, come da un'infinita lontananza, la vanità di tutto e il tedio angoscioso della vita.